La zanzara. Con Alessio Maurizi. 18 e 33 minuti, buonasera, ben ritrovati gentili ascoltatori, una nuova puntata della Zanzara, la prima di questa settimana, una serata per stare insieme e per raccontarci le vostre opinioni all'800 24 0024, come sempre ogni sera, e al 349 238 6666 per i vostri sms, la Zanzara at radio24.it se volete scriverci. In studio questa sera e per queste due settimane Alessio Maurizi, dunque qualche piccola novità nella conduzione del programma, naturalmente con un ringraziamento al lavoro svolto sin qua, ai colleghi Telese, soprattutto Cruciani, che tornerà poi dai primi di settembre. Non cambia invece la squadra per quanto riguarda la redazione: Sara Spreafico, Antonella Migliaccio, in regia c'è Valeria Bernardi, che ci fa sentire subito. Via, cominciamo i titoli dei telegiornali, cominciamo col TG2. Afghanistan, due attentati in poche ore contro gli italiani, bomba contro una pattuglia, spari contro i parà, nessun ferito, votanti rapiti dai talebani, filmato su Al Jazeera. Si contano i danni in Grecia, fiamme sotto controllo dopo tre giorni, un disastro ambientale, conseguenze per anni, dicono gli esperti, mai nel paese un rogo così vasto. La procura chiede l'arresto per il pregiudicato che ha ferito a coltellate una coppia gay a Roma, caccia i complici, Alemanno soddisfatto, nuova aggressione denunciata a Rimini. Da oggi fino a mercoledì allerta caldo al centro-sud, a Roma, Latina, Civitavecchia e Messina, temperature percepite vicino ai 40 gradi. Questi erano i titoli del TG2 con la coda della sigla, andiamo avanti, sentiamo invece Studio Aperto cosa ci propone stasera. Afghanistan, soldati italiani di nuovo nel mirino, oggi due attacchi a distanza di poche ore, nessuno dei nostri militari è rimasto ferito, lo stipendio dei kamikaze, $600 per sparare ai parà, in un video shock la campagna di terrore dei talebani ai seggi. Rimini, aggredita una coppia gay da un vicino di casa, pugni, calci e insulti, mi minacciava da tempo, ho paura, adesso voglio andare via, ci racconta la vittima. A Roma pronta la richiesta di custodia cautelare per l'uomo che ha ferito due giovani omosessuali. L'America flagellata dall'uragano Bill, nel Maine una bimba di 7 anni ed un uomo muoiono trascinati in mare da un'onda gigantesca. Inferno Grecia, si lotta ancora contro le fiamme e gli incendi, arrivano anche sulle spiagge. Giuseppe Bastone, boss della Camorra, è stato arrestato a Scampia, alla periferia di Napoli. Inserito tra i 100 latitanti più pericolosi, si nascondeva in un bunker di 3 metri per 3 con tutti i comfort, frigo, TV e videogiochi. Sono diventato ricco, ma sogno di tornare a fare il barista, confessa Studio Aperto il primo paperone grazie al Super Enalotto. 11 anni dopo quella vincita esce dall'anonimato per raccontare come è cambiata la sua vita. E al neomilionario... 18 e 36 minuti, questi dunque i titoli di Studio Aperto. Continua a tenere manco, come avete sentito anche dai titoli dei telegiornali, la vicenda del respingimento del barcone di immigrati partito dall'Eritrea che ha veleggiato... per qualche giorno nel canale di Sicilia, ci sarebbero almeno una settantina di morti in questa polemica che poi si è innestata soprattutto tra una parte forse del governo, il leader della Lega Bossi e i vescovi italiani che hanno duramente criticato questo atteggiamento di respingere in alto mare le barche con i migranti, si è inserito il ministro degli esteri Frattini che come sapete ha ributtato la palla nel campo dell'Unione Europea e insomma ha detto: beh, qua se c'è un flusso di immigrati che arrivano in continuazione verso il nostro paese, non possiamo fare tutto da soli, in sostanza. Sentiamo un breve passaggio di Frattini ieri. Se vi è un flusso che non possiamo contrastare perché sono persone che dobbiamo proteggere, tutti noi europei ci dobbiamo fare carico di queste persone. Quindi non nega il problema in sostanza Frattini, ma la mette sul piano del condividere il problema con gli altri paesi dell'Unione Europea. Se non fosse che lui stesso è stato dal 2004 al 2008, se non diciamo male, commissario europeo, tra l'altro con delega proprio ai problemi dell'immigrazione. Allora apriti cielo, oggi soprattutto nell'opposizione c'è chi ha preso a criticare duramente Frattini dicendo: beh, non si può invocare l'Europa quando si è stati là fino a poco tempo fa. Salutiamo Salutiamo Emma Bonino, tra l'altro. Buonasera. Buonasera. L'abbiamo raggiunta al volo per qualche minuto, senatrice dei Radicali. Lei ha risposto, tra l'altro, dicendo a Frattini che se non è in corso proprio in una gaffe, quantomeno in una grossa ingenuità, perché insomma è ovvio che questa critica gli sarebbe stata rivolta essendo stato lui 4 anni a Bruxelles. Lei ha detto però l'Europa qua non c'entra molto. No, non c'entra molto perché gli Stati membri non hanno mai dato questa competenza alla Commissione europea, tant'è vero che lo stesso Farnesina nella precisazione dice a giugno abbiamo sottoposto solo un accordo di cooperazione volontaria tra gli Stati, quindi non è l'Europa in quanto tale che non ne ha proprio le competenze, salvo gli Stati membri a livello volontario hanno sottoscritto a giugno di quest'anno un accordo di coordinamento. Però a me, sì. È in più, e quindi la Commissione ha fatto quello che poteva, cioè quello che è nelle sue competenze, che riguarda per esempio la direttiva sui respingimenti che l'Italia dovrà recepire ed applicare, ma non si può chiedere all'Europa, che il cui trattato di Lisbona deve ancora entrare persino in vigore, il nuovo trattato, e nel negoziato del nuovo trattato gli Stati membri non hanno dato alla Commissione europea questa competenza. Il trattato è stato firmato a Roma in pompa magna nel 2005 e adesso è nella fase di ratifica. Io sono una federalista, quindi vorrei molto che l'Europa e la Commissione europea avesse questa competenza comunitaria. Dico solamente che non gli è stata data, per cui adesso non si può chiedere dalla Commissione europea che un giorno si occupi delle carceri, un giorno intervenga sugli immigrati. Insomma la supplenza di quello che invece lei dice dovrebbe essere anche azioni del governo italiano. Però c'è una cosa che a me ha colpito e colpisce in queste ore, ed è questa. Cioè, è vero che questo problema dell'immigrazione, questo è un barcone partito dall'Eritrea, dal Corno d'Africa, ma ci sono immigrati che partono dal Centro Africa, dal Medio Oriente, da zone difficili, poi per il tramite della Libia arrivano in Italia, diretti spesso in altri paesi europei, Francia, Germania, Inghilterra, dove c'è più possibilità anche di inserimento nel mondo del lavoro. Allora è evidente che qua davvero l'Europa è chiamata a dire qualcosa. Sono gli però Stati membri che danno competenze all'Europa, non è che l'Europa se le prende. No, questo l'ha chiarito Bonino, ma il punto che mi preme, data, visto che data. Anche lei è stato commissario europeo, il punto che mi preme chiarire è questo: come mai Roma non riesce mai a far passare una linea di maggior coinvolgimento dell'Europa su questi temi? Beh, innanzitutto perché probabilmente durante il negoziato del Trattato di Lisbona non è stato posto con molta forza, e in più perché evidentemente la condivisione del flusso dei rifugiati, se noi dovessimo farci carico per esempio dei marocchini che arrivano in Spagna o dei tunisini o algerini che arrivano in Francia, per non parlare di tutti i moldavi e quant'altro che arrivano via terra in Germania, evidentemente è una situazione in cui gli Stati membri hanno ancora deciso che ognuno faceva per sé. Se poi hanno cambiato idea va benissimo, ma devono proporre una modifica del trattato o un nuovo trattato. Non si può dire adesso la Commissione europea non fa niente. Questo voglio semplicemente dirle. Un'altra cosa, Bonino, perché si è detto, soprattutto anche da parte di alcuni esponenti del governo italiano, ma la stessa procura di Agrigento sta indagando sulle ipotetiche responsabilità di Malta. A me però anche questo è un argomento che lascia un po' perplesso, un paese di circa 400.000 abitanti al confronto con quelle che sono le potenzialità di intervento navale dell'Italia. Mi sembra ridicolo da parte di un paese come il nostro andare a cercare responsabilità in Malta. Infatti le dico, tutta questa materia non si può più affrontare essendo un fenomeno globale a livello nazionale, ma la miopia degli Stati membri, e non solo di quello italiano, ha fatto sì che nel negoziato del nuovo trattato questa visione globale non si è voluta prendere in considerazione, e adesso ogni Stato membro, quando gli capita qualcosa, trova nell'Europa il capro espiatorio, che è un modo di fare non proprio responsabile per governare i fenomeni. Questo solo voglio dire. Benissimo, grazie Emma Bonino. Sappiamo che è all'aeroporto in partenza, l'abbiamo raggiunta velocemente per sottoporle questa questione che oggi, come detto, è il ping pong di responsabilità che rimbalza tra Roma e Bruxelles. Abbiamo sentito prima un estratto della dichiarazione del ministro Frattini, allora sentiamo un altro pezzo in cui Frattini specifica che il nodo è proprio anche quello delle risorse da condividere con gli altri paesi dell'Unione Europea. Quando poi qualcuno viene in Italia, noi dobbiamo chiedere all'Europa che si faccia carico di una divisione dei pesi, degli oneri, delle responsabilità. 10.000 persone che arrivano a Lampedusa, certamente l'Italia non è in grado di tenerle. 27 paesi europei potrebbero dividere in parte le responsabilità. Abbiamo sentito poco fa la posizione di Emma Bonino, radicale, sul ruolo che l'Europa deve o non deve avere in questa vicenda. C'è anche la posizione della Lega, l'eurodeputato della Lega Mario Borghezio, con una interrogazione urgente a Bruxelles, chiede, virgolettato dell'Ansa di questo pomeriggio, sarebbe interessante sapere quali azioni svolgano concretamente i ben pagati funzionari dell'Unione Europea in Africa. È lì che si potrebbero e dovrebbero monitorare le trasmigrazioni dal centro Africa verso il nord di popolazioni dirette ad emigrare illegalmente verso l'Europa. Questa del resto è la posizione della Lega, ribadita ancora oggi dal ministro Zaia, che parla di atto di civiltà. Sentiamo. L'Unione Europea, anche alle nostre telecamere, Hammerberg ha detto: noi non siamo d'accordo sulla legge sui respingimenti, l'Europa interverrà e la bloccherà. Cosa replicate? Dico che il ministro Maroni sta facendo un lavoro eccezionale, sta applicando dei regolamenti comunitari come ha spiegato ai cittadini italiani, non è un atto di razzismo ma è un atto di civiltà. Noi possiamo pensare che si possano dare queste idee agli immigrati. E se l'Europa vi blocca cosa fate? Affrontiamo i problemi uno alla volta. Oggi abbiamo una legge approvata dal Parlamento che è una legge chiara, è stata votata a maggioranza da persone democraticamente elette. L'Europa se mette in discussione questa legge mette in discussione delle scelte democratiche di questo Parlamento. Tra l'altro, tra pochissimo, alla festa del Partito Democratico di Genova, è atteso il segretario Franceschini. Sentiamo invece che ne pensa di questa materia uno dei tre candidati alla segreteria, Marino. Noi dobbiamo sapere cosa è accaduto a queste vite umane. Sono persone e la loro dignità va protetta da noi che siamo italiani e la nostra cultura di solidarietà deve prevalere su qualunque altra cosa. E in tutta questa vicenda che vi abbiamo raccontato sin qua, cioè il ping pong di responsabilità tra Roma e Bruxelles nella vicenda degli immigrati che sono morti nel canale di Sicilia, si innesta anche il prossimo viaggio di Berlusconi in Libia, paese col quale l'Italia ha, come sapete, firmato un accordo che prevede anche pattugliamenti, insomma una riduzione degli sbarchi che in effetti dall'inizio dell'anno c'è stata, però a quanto ci sembra di capire non c'è stata una riduzione delle partenze dalla Libia e questo sarebbe eventualmente un problema. Viaggio di Berlusconi che è atteso in Libia per il 1 settembre, dove ci saranno le celebrazioni del 40° anniversario della presa del potere da parte del colonnello Gheddafi. L'Italia presterà per questa occasione le sue frecce tricolori, che si sono esibite tra l'altro in questi giorni anche in Russia a Mosca, e c'è un'interrogazione parlamentare di esponenti dell'Italia dei Valori e dei radicali che chiedono quanto costerà anche questo regalo che facciamo alla Libia, in un momento tra l'altro in cui l'accordo Italia-Libia sembra non funzionare benissimo. Risponde il ministro Frattini, che dice: no, Berlusconi deve andare, il viaggio sta da fare per una serie di ragioni, abbiamo finito la pagina col colonialismo, con la Libia abbiamo rapporti economici. E poi dice Frattini: si parla sempre d'Africa, ma dobbiamo parlare con gli interlocutori africani, come Gheddafi, che è il presidente dell'Unione Africana. Sentiamo Frattini. Gheddafi è il presidente dell'Unione Africana, quindi non facciamo chiacchiere sull'Africa e poi non incontriamo l'Unione Africana e chi la rappresenta. E dell'interrogazione appunto degli esponenti dell'Italia dei Valori e dei radicali abbiamo detto quanto costeranno le frecce tricolori che l'Italia presterà alla Libia per questo viaggio, che però il Ministero degli Esteri fa sapere c'è ancora un monitoraggio, non è per ora è confermatissimo, ma potrebbe anche subire qualche piccola variazione. C'è un altro tema di cui vogliamo parlare e è stato lanciato anche dai titoli dei telegiornali, ed è la vicenda dei due ragazzi gay accoltellati verso le 4 di sabato notte nei pressi del Gay Village mentre erano presi in un atteggiamento, in un abbraccio e in qualche scambio di effusioni. Il sindaco della capitale Alemanno dice: ci vogliamo costituire parte civile, e poi se la prende con il sottofondo di ostilità nei riguardi degli omosessuali. Sentiamo. È assurdo lasciarlo a piede libero, deve essere assolutamente arrestato. Noi ci costituiremo parte civile perché riteniamo che questo reato offende la coscienza di Roma proprio nel suo sottofondo di intolleranza sessuale. Ed è una novità da questo punto di vista, perché in altre occasioni esponenti della destra, del centrodestra italiano, erano un po' resti a parlare di sottofondo, a parlare di in termini di sociologia, se vogliamo, di associazione di reati a certi contesti o all'odio razziale quando si trattava di reati compiuti nei confronti di extracomunitari o di stranieri o anche nei casi precedenti di omosessuali. Qua no, Alemanno dice c'è un sottofondo che non va bene, un sottofondo di ostilità nei confronti degli omosessuali. E adesso ascolteremo qualche intervento di ascoltatori a Radio Padania, un intervento in particolare piuttosto pesante, lo anticipo subito, e che io non condivido per niente, mi sembra veramente intollerabile, però lo sentiamo perché, ed è proprio quel sottofondo a cui probabilmente Alemanno si riferisce, sentiamo. Pronto, buongiorno, buongiorno. Padania. Salve. Allora, io mi voglio riferire alla storia dei culattoni di Roma, eccetera. Cioè, io praticamente sono contro accoltellamenti vari, per carità. Cioè, accoltellare è intendato omicidio. Quello è troppo. Però due calci nel culo, quello sì, l'avrei fatto anch'io in mezzo alla strada. Che è inammissibile che... Cioè, io porto spesso i miei bambini, cioè, vedo due persone dello stesso sesso che si baciano. Cioè, è una schifezza incredibile. Cioè, due calci nelle palle, se le hanno meno, le avrei date anch'io. Non accoltellare. Calci nel culo, sì. Una schifetta comunque. Ciao. Questi gli ascoltatori, un ascoltatore almeno che ci viene segnalato da Radio Padania. Io dico, naturalmente qua ognuno stasera, come tutte le sere, potrà dire la sua, tranne però inneggiare a qualsiasi forma di violenza, questo assolutamente no. Del resto ognuno può avere le reazioni che vuole, ma il problema della tolleranza è proprio quello di non alzare le mani. Insomma, uno può dire a me fa schifo, ho capito, però non è che questi sono beccati delle coltellate e sono ricoverati in ospedale, tra l'altro uno non prognosi riservata, ma insomma in condizioni piuttosto gravi. La procura di Roma fa sapere che il quarantenne sospettato e fino ad ora a piede libero dovrebbe essere arrestato, è questione di ore perché è stato emesso un ordine di arresto. Andiamo con gli ascoltatori brevemente perché poi ci saranno anche ci sarà il giornale radio. Enzo dalla provincia di Torino, primo ospite di questa sera, benvenuto. Sì, buonasera. Prego. Io chiamavo soprattutto per il discorso della polemica sui morti a Lampedusa, nel canale di Sicilia. Sì. Ecco, sono abbastanza stupito dall'atteggiamento di alcuni vescovi della Chiesa Cattolica, che mi sembrano più che posizioni che fanno riferimento ai valori della Chiesa, che ha tutto il diritto di esprimere e soprattutto con una certa forza, io ritengo che siano più posizioni che privilegino una certa area politica che in questo momento in Italia sta all'opposizione. Questo mi sembra paradossale. Cioè, lei dice che i vescovi fanno politica, sì, e non hanno politica. Un reale interesse per gli immigrati o per la vita umana. No, attenzione, ce l'hanno, però... Il problema è che l'atteggiamento non mi sembra un atteggiamento equilibrato, mi sembra più un atteggiamento da tifoso, da chi fa il tifo per un certo tipo di politica da mettere in atto per quello che riguarda l'immigrazione, che è un argomento estremamente delicato dove tutta la classe dirigente italiana ha grosse responsabilità. Perché dico questo, ha grosse responsabilità? Perché basterebbe mettersi a discutere seriamente, confrontarsi senza demagogia, senza accusare l'uno e l'altro e cercare quella che può essere una soluzione di un problema gravissimo. Cioè, perché... secondo lei i vescovi fanno solo demagogia, cioè non aiutano a trovare soluzioni ai problemi, fanno politica, fanno demagogia e non... Allora, sì, mi scusi, dottore. Se lei vede l'atteggiamento che ha il centro-sinistra prevalentemente, soprattutto una parte... Sì. No, ma sa perché le faccio questa domanda? Mi scusi, prego. Poi la faccio proseguire. Perché credo che sia vero quello che dice Bossi, quando con la sua anche capacità di slittare da un piano all'altro, dice i vescovi fanno il loro mestiere e noi che facciamo politica facciamo il nostro. Io credo che al di là del fatto che si condividano le posizioni di Bossi, questo sia vero. Cioè i vescovi danno la loro posizione così come la danno sulla bioetica... Certo. Sul sull'aborto, su mille altre cose, anche sui morti nel canale di Sicilia. Dopodiché poi la politica, il mondo politico trae le sue conseguenze. In questo caso le posizioni dei vescovi coincidono con alcune critiche dell'opposizione, però non mi scandalizzerei per questo, insomma. Ma mi scusi, sai di che cosa io sono scandalizzato? Il fatto che questo purtroppo impedisce al nostro paese di andare a fare quegli interventi da un punto di vista dell'adattamento funzionale della macchina dello Stato, quindi mi riferisco alle riforme costituzionali, alle riforme delle politiche attuative di, non so, nel campo del lavoro. Ma questo però, mi scusi, che c'entrano i vescovi adesso con la riforma costituzionale? No, ma c'entrano, mi scusi. Allora, quando lei ha una certa area politica che, facendosi forte di certi atteggiamenti da parte di alcuni vescovi, non fanno altro che continuare a fare demagogia. Ho capito, quindi, però la sua critica adesso è più chiara. Lei sta criticando l'opposizione e questo è un altro paio di maniche. Certo, certo. Questo impedisce di un reale confronto fra opposizione e governo, fra opposizione e maggioranza, pardon, all'interno di un Parlamento, per poter poi esprimere con i lavori parlamentari delle leggi che siano le migliori possibili. Questo non va bene, cioè i vescovi dovevano dire: caro Franceschini, caro Bersani, caro Fassino, la situazione non è accettabile sotto questo profilo. Sì, è chiaro quello che lei dice. Deve dire, caro Presidente Berlusconi, non è accettabile sotto questo profilo. Però non credo che quello che lei dice, io la ringrazio intanto Enzo dalla provincia di Torino, non credo che sia sinceramente molto possibile, non è mai successo almeno che i vescovi la CEI, l'Avvenire, il quotidiano Avvenire, il quotidiano dei vescovi avrà preso posizioni dopo che le loro stesse posizioni sono state, se lei vuole, strumentalizzate da una parte politica. Loro hanno espresso una posizione, dopodiché poi se c'è una strumentalizzazione politica dell'opposizione, come è normale anche che ci sia una dialettica tra governo e opposizione, appunto, forse bisogna puntare più il dito nei confronti, in questo caso, del Partito Democratico, ma i vescovi non c'entrano, secondo me non c'entrano molto. Oscar da Modena, il prossimo ascoltatore, buonasera. Buonasera dottore. Prego. Grazie per l'ospitalità. Io volevo intervenire in merito a quanto le notizie di questi giorni, l'accoltellamento dei due gay a Roma, oggi notizie di Forlì, mi sembra un altro accoltellamento che credo che sia frutto di questa società, frutto di quello che sta venendo fuori, della contrapposizione, del non accettare più niente di quello che può essere la diversità, non accettiamo quello di colore, non accettiamo l'arabo, non accettiamo il musulmano. Lei per esempio che reazione avrebbe di fronte a due uomini che si stanno baciando? A parte che qui erano le 4 di notte, quindi non credo ci fosse un grande pubblico. Io al di là di tutto non vorrei fare della falsa demagogia, cioè chiaramente io non sono un omosessuale, però può anche dare un'impressione così. Ma guardi, io ne incontro, non dico quotidianamente, ma mi capita abbastanza di sovente di incontrarne, anche di non dico che si fanno delle fusioni, non mi è mai capitato, però che si veda chiaramente che è una coppia di omosessuali. Sì, può anche mettere a disagio, io questo lo capisco. Il problema è che di lì a passare ad aggredire col coltello può mettere a disagio, ce ne corre. Anche una coppia di eterosessuali che fanno fusioni fuori dall'ecito. Cioè, attenzione, io non sono. Ma però, anche questo in altre situazioni ha attirato altre forme di violenza. Questo sì, di aggressione, lo sappiamo. Credo che tutto provenga, ci sia, diciamo, non dico una regia, ma quantomeno qualche cosa che ci porta a queste situazioni. Sentiamo i titoli del TG3. In Afghanistan ancora bombe contro gli italiani, nessun ferito. Crescono i dubbi sulla regolarità del voto, elettori sequestrati dai talebani. Bruxelles, Frattini, sull'immigrazione stiamo facendo molto. La preoccupazione di Napolitano, indagati per immigrazione clandestina e naufraghi sopravvissuti. Sacconi rilancia i salari differenziati, stop della CGIL, no ai ricatti, aperture da CISL e UIL che chiedono zero tasse sui contratti integrativi. La Grecia brucia ancora, ma cala il vento del fuoco risparmio Atene. Piromani sotto accusa, roghi dolosi per speculare sul territorio. Due ragazzi gay picchiati a Rimini da un vicino. A Roma la procura chiede il carcere per l'uomo che ha aggredito una coppia omosessuale. Allarme sulla Palermo-Mazzara per un cavalcavia costruito con cemento impoverito. La denuncia di un cittadino fa scattare i controlli. Inglourious Basterds, il nuovo film di Tarantino con Brad Pitt, fa record incassi in America. Cannes non aveva entusiasmato. Questi erano i titoli del TG3 e poco fa, dalla festa del Partito Democratico di Genova, il leader del PD torna a attaccare il governo. Dice Franceschini: dal governo e dalla maggioranza ci sono intimidazioni verso il ruolo del Parlamento e la stampa, ma la coscienza civile del paese non deve addormentarsi e noi abbiamo il dovere di alzare la voce e di reagire. Ci sono anche un po' di polemiche sulla quantità di persone presenti alla festa del PD, perché oggi alcuni giornali facevano vedere delle foto con seggiole vuote nei dibattiti proposti a Genova alla festa del PD. Titoli di Sky TG24. Afghanistan, italiani ancora nel mirino, due attacchi oggi, nessun ferito. Video shock di Al Jazeera, ecco come i talebani puniscono chi ha votato. Due bus saltano in aria a sud di Baghdad, donne e bambini tra i 20 morti. Roma-Bruxelles, braccio di ferro sull'immigrazione, indagati 5 eritrei. Salari differenziati o niente sgravi, proposta di Sacconi, apertura di Bonanni. Il fuoco dà tregua alla Grecia, sotto controllo le fiamme nell'Attica. Sotto Scampia il rifugio dei latitanti, ecco la città nascosta della Camorra. I gay feriti a Roma, ha chiesto l'arresto per l'aggressore, ma forse non era solo. Si rivede Castro, in un video il leader massimo in discrete condizioni di salute. Serie A, falsa partenza dell'Inter, Moratti minimizza ma accusa troppa fretta. 19:18, questi dunque i titoli di Sky TG24. Come avete sentito, braccio di ferro tra Roma e Bruxelles sulla questione immigrazione. Sentiamo come il ministro degli esteri Franco Frattini ha tirato in ballo Bruxelles. Se vi è un flusso che non possiamo contrastare, perché sono persone che dobbiamo proteggere, tutti noi europei ci dobbiamo fare carico di queste persone. E poi le sorti di Italia e Libia che si intrecciano ancora una volta, perché il 1° settembre ci saranno le celebrazioni del 40° anniversario della presa del potere di Gheddafi. È atteso Silvio Berlusconi, andrà o non andrà, deve andare o non deve andare? Certo che deve andare, dice Frattini, perché con Gheddafi bisogna assolutamente dialogare, del resto lui è il presidente dell'Unione Africana. Gheddafi è il presidente dell'Unione Africana, quindi non facciamo chiacchiere sull'Africa e poi non incontriamo l'Unione Africana e chi la rappresenta. Oltre all'opportunità o meno che Berlusconi presenzi a questi festeggiamenti in Libia, ricordiamo anche dopo la liberazione del terrorista di Lockerbie, l'accoglienza trionfale riservatagli da Tripoli, dallo stesso Gheddafi, dopo che anche l'Inghilterra e gli Stati Uniti avevano detto almeno non accoglietelo in pompa magna. Dopo tutto questo c'è anche uno strascico sull'impiego delle frecce tricolori in Libia, il nostro fiore all'occhiello impegnato in questi giorni a Mosca. Quanto ci costerà questo regalo alla Libia, chiedono alcuni parlamentari dell'Italia dei Valori e deputati dei radicali con una interrogazione, e che sulla questione dell'immigrazione, i pattugliamenti e anche i rapporti personali forse tra Berlusconi e Gheddafi non vadano per il verso giusto, lo pensa l'opposizione, il Partito Democratico, ma lo pensa anche l'UDC. Sentiamo Rocco Buttiglione questa mattina a 24 mattina, Radio 24. Abbiamo commesso un errore gravissimo. Noi potremmo rimandare indietro in Libia i barconi dei disperati? Secondo me potremmo benissimo, se la Libia fosse un paese che sottoscrive la Convenzione sulla protezione dei diritti dei rifugiati di Ginevra del 1951, perché allora potremmo dire: perché venite voi i barconi? Andate in Libia, andate agli uffici libici, fatevi rilasciare un passaporto internazionale come rifugiati e poi venite con i mezzi normali. E invece la Libia non sottoscrive. Perché la Libia i diritti dei rifugiati non li riconosce. I rifugiati in Libia sono trattati come carne da cannone, non dirò peggio che in Eritrea, ma non molto meglio che in Eritrea. Abbiamo dato 6 miliardi di euro, avevamo 6 miliardi di buoni argomenti per convincere la Libia a sottoscrivere la Convenzione di Ginevra. Adesso che argomenti abbiamo per convincerli? Perché Gheddafi alle convenzioni umanitarie non è molto favorevole, come è noto. E avevamo in linea un ascoltatore prima della pausa per il GR che ci chiamava da Modena, Oscar, sulla questione dell'accoltellamento dei gay romani. Tra l'altro un caso è segnalato anche a Rimini. Voglio leggere solo un paio di sms che ci arrivano al 349-238-6666. Uno dice: lei sarebbe felice se suo figlio fosse educato da una coppia di omosessuali, ma che c'entra con l'aggressione? Non c'entra assolutamente nulla. E poi c'è chi dice che le fusioni tra persone dello stesso sesso dovrebbero essere addirittura vietate per legge, ma anche questo uno può non essere d'accordo, ma non c'entra nulla col fatto di aggredire, come è successo a Roma. Oscar da Modena, prego. Sì, sono in linea. Sì. Niente, vi riallacciavo per finire il discorso, lasciare anche altri telespettatori, radioascoltatori. Se vi ricordate, mi auguro che i cittadini italiani se lo ricordino, la campagna che fu fatta durante l'elezione del sindaco di Roma sulla sicurezza per la morte della signora Reggiani. Sì. Ora, uno degli artefici di questa campagna fu l'attuale sindaco Alemanno. Non mi sembra che abbia lo stesso tipo di reazione che ha avuto nel momento in cui si verificò con Veltroni sindaco. Ora, purtroppo queste cose possono succedere con un sindaco di destra, di sinistra, della Lega, di qualsiasi esponente politico, di qualsiasi coalizione, di qualsiasi natura. Il fatto di strumentalizzarla solo ai fini politici, vorrei che gli italiani se lo ricordassero quando sarà il momento. La ringrazio molto. Grazie Oscar. Grazie, buona serata. Sì, a dire la verità, un po' di strumentalizzazione da parte di chi sta all'opposizione in quel momento, come era Alemanno a suo tempo, ci può sempre stare. Però abbiamo anche voluto sottolineare come invece il sindaco di Roma questa volta abbia preso una posizione, non solo dicendo che il comune si costituirà parte civile, non solo prendendosela col magistrato che ha liberato il quarantenne accusato dell'accoltellamento e che tra l'altro la procura ha emesso poco fa un ordine d'arresto per cui sarà tra poco probabilmente arrestato, ma ha anche parlato di un sottofondo che c'è di ostilità nei confronti degli omosessuali, e questa forse da parte anche di un certo tipo di politica a cui lei anche si riferiva è forse una novità. Sentiamo le parole del sindaco di Roma. È assurdo lasciarlo a piede libero, deve essere assolutamente arrestato. Noi ci costituiremo parte civile perché riteniamo che questo reato offende la coscienza di Roma proprio nel suo sottofondo di intolleranza sessuale. Un sottofondo di intolleranza sessuale, ripeto, espressioni di sapore vagamente sociologico come queste in altri momenti non le avevamo sentite in bocca a esponenti della destra italiana, e questa forse è una cosa da sottolineare. Vorrei salutare l'onorevole Fabio Granata, buonasera. Buonasera. Vicepresidente del Popolo della Libertà della Commissione Parlamentare Antimafia e esponente appunto del centrodestra. Nel posizioni che si sono affermate in queste ore sulla questione degli sbarchi di clandestini e delle morti che purtroppo avvengono, mi pare che da una parte la Lega, dall'altra i Vescovi, il centrosinistra, l'UDC, tutti compatti contro il governo, sia una delle poche persone che si è distinta per cercare di avere una posizione diversa. Lei dice su questi fenomeni come il governo dell'immigrazione, il centrodestra si appiattisce troppo sulla linea della Lega, mi pare di aver capito così, e questo è un errore, bisogna avere una politica più ampia. C'è questo appiattirsi del governo sulla posizione della Lega? C'è questo rischio, e certamente il PDL, che è un grande partito di governo e che poi vuole essere erede di una tradizione legata al modello italiano, che voglio ricordarlo è un modello dentro il quale sta una grande storia di emigrazione, ma anche una grande storia di integrazione fin dall'antichità classica, deve riuscire a declinare una politica che sia attenta ai fattori dell'integrazione, consapevole però della grossa necessità di dare un segno di legalità e di fermezza. Allora bisogna, come dire, riequilibrare il ragionamento. Bene hanno fatto i vescovi a richiamare alla fondamentale difesa dei diritti individuali, perché di fronte al diritto alla vita ci si ferma tutti, hanno ben fatti i vescovi a sottolinearlo. Bisogna anche dire che una legislazione che non dia l'idea che l'Italia sia un paese totalmente aperto, addirittura sbracato, è necessaria, perché altrimenti le dinamiche diventano realmente ingovernabili. E nella luce di questa declinazione abbiamo pensato appunto di fare una proposta di legge legata appunto alla cittadinanza, che poi peraltro è poco a che fare con i problemi della sicurezza. Un cavallo di battaglia tra l'altro del Presidente della Camera Gianfranco Fini, suo collega di partito, e sarà sicuramente un altro punto su cui vi dividerete con la Lega. Ma ci credete davvero a questa cosa della cittadinanza, visto insomma che, come voi dite, la linea la sta dando forse più la Lega, non sarà facile spuntarla? Il problema è che il Parlamento serve a ragionare e ad approfondire le proposte appunto legislative. Noi riteniamo di aver, insieme al collega Sarubi, presentato una proposta di legge giusta. Non è una legge né di destra né di sinistra, ma è una legge legata profondamente al modello italiano, che da una parte dà alla cittadinanza una valenza di tipo attivo e non meramente concessorio. Quindi non bisogna ipnotizzarsi sulla ragione sociale, che è soltanto quella di abbreviare i termini. Per certi versi la cittadinanza nella legge così come noi la concepiamo è di più difficile ottenimento, perché la cittadinanza è una grande opzione di tipo politico: si fa parte di un popolo perché si ama la storia di quel popolo e ci si vuole integrare in quella storia. Allora è una norma che abbrevia realmente i termini a 5 anni, e però prevede tutta una serie di requisiti, dal requisito reddituale minimo alla verifica di un livello di conoscenza della lingua e della cultura italiana, fino al giuramento sulla Costituzione e fino a tutta una serie di motivi preclusivi dell'attribuzione molto rigorosi, per cui non è vero per nulla che è più facile arrivare alla cittadinanza se questa legge sarà approvata. Invece si dà della cittadinanza una valenza diversa, una valenza squisitamente politica, cioè non si può basare la cittadinanza su un fatto etnico o peggio ancora su una questione legata semplicemente alla appartenenza alle radici. Infatti noi introduciamo anche un principio che ci sembra giusto, che è quello di uno ius soli temperato, cioè il ragazzo, il bambino che nasce in Italia da genitori non italiani ha il diritto di essere registrato come cittadino italiano e poi, attraverso il conseguimento di un ciclo di studi e di formazioni, a tutti gli effetti cittadino italiano. Ci sono esponenti della sua maggioranza che non sarebbero d'accordo, perché dicono nascere casualmente sul suolo italiano non basta. Onorevole Granata, se vuole resti con noi, abbiamo una pausa per la borsa. Io tra l'altro le volevo fare anche un'altra domanda che riguarda un'altra vicenda, la spieghiamo bene se lei resta con noi, quella del comune di Fondi, di cui il ministro dell'interno ha chiesto lo scioglimento per infiltrazioni mafiose. Il governo è fermo, lei è membro della commissione antimafia, quindi vorrei una sua opinione su questo. Giovanni, che ci chiama da Roma, buonasera. Buonasera. Senta, secondo me il problema dell'immigrazione è un problema un po' globale. Qui ci troviamo praticamente con un quarto del mondo che sta bene economicamente, abbiamo tutto, e tre quarti che purtroppo stanno al di sotto della soglia di povertà. Quindi forse magari se tutti quanti ci fermassimo un attimo e aiuteremmo queste persone nei propri paesi d'origine con dei programmi seri, delle cooperazioni. Io purtroppo non sono un addetto che può risolvere, però insomma penso che forse sia che se uno parte dall'Eritrea per venire a cercare un pezzo di pane in Europa, evidentemente lì le condizioni sono veramente disperate. Cioè, sono anni che sentiamo parlare sempre delle stesse cose e sembra un problema che non si riesce a risolvere o non si ha la volontà di risolverlo. Quindi dobbiamo tutti quanti un pochettino fare un po' di così, fermarsi e vedere veramente perché questa gente viene a bussare alle nostre porte, perché questi nel paese loro non hanno nulla, non hanno di che sfamarsi, campano, insomma. Non lo so, qui penso il problema sia proprio delle società del benessere. Società, sì, e tra l'altro è opinione diffusa che bisognerebbe intervenire per migliorare le condizioni dei paesi a dove parte l'immigrazione. Poi però quando scopriamo che nelle liste, negli elenchi, nelle classifiche dei fondi destinati alla cooperazione, l'Italia per esempio, come abbiamo appreso anche al recente G8 dell'Abruzzo, è in coda, allora Allora qualche perplessità in più rimane. Grazie anche a Giovanni da Roma che sottolineava questo aspetto. Abbiamo in linea, come ricordavate, l'onorevole Granata, che è ancora con noi, con cui volevamo affrontare anche questo aspetto del comune di Fondi, il comune di cui il ministro dell'interno Maroni, su segnalazione del prefetto, aveva chiesto qualche mese fa, se non ricordo male, a febbraio, lo scioglimento per infiltrazioni mafiose. Poco fa, qualche giorno fa recentemente, il presidente del Consiglio Berlusconi ha detto: non abbiamo notizie di nessun membro del Consiglio Comunale a cui sia arrivato un avviso di garanzia per questioni mafiose, dunque per ora non lo sciogliamo. Da esponente di centrodestra della Commissione Antimafia, lei che ne pensa? Ma noi abbiamo affrontato il tema in ufficio di presidenza della Commissione Antimafia presieduta dal senatore Pisano e dobbiamo dire che su Fondi vi è una situazione certamente da non sottovalutare, quindi che dovrebbe portare realmente a una valutazione più attenta da parte del governo rispetto all'ipotesi di scioglimento, partendo anche dal presupposto che molto recentemente Berlusconi ha fatto benissimo a sottolineare come la centralità strategica delle politiche di contrasto alle mafie è una grande questione nazionale, e questa grande questione nazionale ha anche una grandissima implicazione economica. Basti pensare cosa comporta in termini di potenza economica il fatturato delle mafie sui rifiuti, sulla gestione delle discariche, sullo grande spaccio di droga e sul riciclaggio legale del denaro. Quindi tutte quelle situazioni, a partire da Fondi, ma non soltanto Fondi, in cui queste infiltrazioni sono dalla relazione sia del prefetto che del ministro abbastanza evidenti, bisogna che ci sia una grande attenzione realmente, perché questo tema è una precondizione della costruzione di un'Italia diversa. Esponenti... Io sono convinto che si deve andare avanti con lo scioglimento. Ecco, perché esponenti dell'opposizione, come Di Pietro per esempio, è arrivato a dire addirittura su questo tema: il governo aiuta la mafia. Siccome insomma sono alcuni mesi che non arriva questo scioglimento. Io passo un po' per certamente non per un parlamentare sempre allineato con le posizioni del governo, ma nell'ultimo decreto sicurezza che ho messo in discussione rispetto ad alcune questioni legate ad esempio al reato di clandestinità, c'è la legislazione legata al contrasto alle mafie più rigorosa degli ultimi anni, almeno dal 92 ad oggi, legata al 41 bis, legata al sequestro dei grandi patrimoni. Bisogna dare atto a Maroni e ad Alfano di avere fatto approvare delle norme rigorosissime, e sono delle norme che devono avere una valenza per tutti, non sono delle norme di parte. Quanto tempo ci vorrà per arrivare allo scioglimento? Dovrebbe leggere con più attenzione gli atti del governo. Quanto tempo ci vorrà per arrivare allo scioglimento, secondo lei? Ma a mio avviso, se c'è una volontà, come dire, e dovrebbe esserci una volontà politica, lo scioglimento deve essere immediato. E tra l'altro l'approfondita modifica che Maroni proprio ha proposto è quella legata, non so, Vera, lei diceva prima non c'è un consigliere comunale, cioè riferendosi al Premier che sottolineava questo aspetto, ma molto spesso i comuni sono, e l'infiltrazione è molto ma molto più profonda, legata anche alle burocrazie comunali che vanno rimosse integralmente. Ecco, la grande novità è che adesso, una volta sciolto un comune per mafia, non viene rimosso soltanto il consiglio comunale, ma viene rimossa anche la struttura burocratica e organizzativa, e questo è merito di questo governo. Allora, se approviamo queste norme, poi dobbiamo essere conseguenziali nell'applicarle. Grazie, staremo a vedere. Onorevole Fabio Granata, vicepresidente della Commissione Antimafia, esponente del Popolo della Libertà. Riprendiamo con gli ascoltatori, ce ne sono molti in attesa. Cominciamo con Andrea, che ci chiama dalla provincia di Pavia. Buonasera. Sì, buonasera. Prego. Sì, buonasera. Senta, io volevo intervenire sull'argomento più generale dell'intolleranza. Lei ha fatto ascoltare una telefonata di Radio Padania. Sì. E poi c'è anche a cui è seguita un intervento di un ascoltatore che diceva che in questo paese c'è intolleranza. Allora, io sono leghista, consigliere comunale leghista di Vigevano, dunque diciamo ci tengo a sottolineare il fatto che non mi è sembrato giusto come è stata trasmessa e posta questa telefonata, perché intanto c'è da dire che in anni di attività politica della Lega non c'è un fatto di violenza riconducibile a nostri militanti o a nostri simpatizzanti. Niente di violenze xenofobe ce ne sono a destra, a sinistra, e anche di violenze xenofobe nei confronti dei leghisti, dei nostri gazebo e dei nostri militanti. Punto primo. Dunque, per prima cosa, a noi non possono venire imputate atteggiamenti di questo tipo. In secondo luogo, io credo che quando c'è un problema di convivenza, si parlava dei musulmani, adesso lasciamo stare l'episodio dell'omosessuale perché era alle 4 di notte e non c'era nessuno, ma se la gente comune non vuole essere intollerante, è che ha a che fare tutti i giorni con dei grossi problemi che la politica deve risolvere, non può fare finta di niente, perché uno non è intollerante perché uno è musulmano, è intollerante perché c'è un quartiere intero dove non puoi più passare, quello una volta era tuo e adesso non è più tuo, dunque bisogna andare però, a riflettere. Sì, ma che c'entra cose, adesso, cioè, che c'entra adesso il quartiere con l'invasione di extracomunitario o quant'altro, con l'aggressione di due persone? Tra l'altro, no, perché c'era, tra l'altro, mi scusi Andrea, se le dico e se sottolineo questo aspetto, lei ha perso un'occasione, quella di prendere distanze da esponente della Lega, consigliere comunale a Vigevano, da una telefonata che ci viene segnalata su Radio Padania, ed è gravissima quell'intervento. Lei ancora questo non l'ha detto? No, ma allora, l'intervento diceva che io gli darei un calcio nelle palle, un calcio nel sedere, ma è chiaro che prendo la distanza dall'intervento, perché però quello che io le sto dicendo è che, se lei vede, nessuno ha mai dato un calcio nel sedere a nessuno dei nostri, capisce quello che voglio dire? Allora, non lo so questo, probabilmente ha ragione lei, però quella telefonata, lei dice non è d'accordo come è stata trasmessa, ovviamente non è rappresentativa, questo nessuno ha la presunzione mai in nessun caso di voler rappresentare tutto l'universo politico, in questo caso della Lega, è una telefonata che è passata su Radio Padania, piuttosto grave. Lei ha fatto un intervento in cui, prima di prendere distanza da quell'intervento, se la prende col fatto che noi abbiamo proposto la telefonata. È un elemento di informazione, è un elemento di chiarezza. Mi dispiace, ma non capisco la critica. Non abbiamo voluto dare nessun tipo di visione della Lega. Abbiamo semplicemente fatto sentire un ascoltatore una telefonata molto grave, ripeto, e lei tra l'altro è intervenuto senza prendere le distanze da questo. Mi dica con più convinzione che quella telefonata, lei da esponente leghista, le fa, non dico schifo, ma insomma la ritiene grave. Non mi fa schifo, perché intanto doveva essere bisognava ascoltare il discorso in cui lei ha trasmesso quel pezzo di telefonata, bisognava capire nel tono e capire il contesto in cui si diceva. Le ripeto, e qual era lei il contesto? Mi deve trovare un caso in cui qualcuno di noi è andato a compiere azioni di violenza, mentre sia a destra che a sinistra questo capita sempre e non viene mai sottolineato. Ma io abbastanza. Questo posso anche dare atto, per quanto non siamo qua a cercare di capire se ci sono stati esponenti leghisti in passato che abbiano commesso atti di violenza. Anche un'espressione verbale come quella, io almeno personalmente l'ho ritenuta piuttosto pesante. Me ne rendo conto. Associata tra l'altro a quello che è successo a Roma. Tutto lì, insomma. Sì, ma io. Poi sul fatto che la Lega sia. Capisce, è assurdo, e lo so anch'io che non ha senso andare a tirare e dire vado a tirare il calcio nel sedere, però bisogna anche rendersi conto. Dica. No, la stavo ascoltando, bisogna rendersi conto. Cioè, bisogna però anche domandarsi alle volte su che cosa crea la sensazione di malessere nelle persone, perché non sono tutti intolleranti o razzisti, questa è la cosa che secondo me bisogna. Ma in questo caso che cos'è che potrebbe avere creato malessere? No, il gay village, la manifestazione degli omosessuali? In questo caso, come era accaduto alle 4 di notte, secondo me quelli erano solo degli squadristi, insomma, della gente assoluta. Beh, infatti mi sembra che avesse dei precedenti, cioè in questo caso io mi riferivo a un discorso di tolleranza generale, perché dopo è intervenuto qualcuno che diceva siamo intolleranti ai musulmani, siamo intolleranti ai neri, queste generalizzazioni non hanno senso, sì. Come? No, dico, queste generalizzazioni non hanno senso, ho capito il contesto di cui lei parla, però insomma, ripeto, forse perché erano alle 4 di notte, forse perché insomma, non ce la vedo molto questa associazione. Comunque, grazie anche a lei per il suo intervento. 19.43, tra poco la pausa per le informazioni. No, non c'è la pausa, allora possiamo andare avanti con gli ascoltatori. A cominciare, andiamo molto più a sud, da Calogero, che ci chiama da Palermo. Buonasera. Buonasera, io volevo intervenire, volevo dire due cose riguardo la questione di Gheddafi e l'intolleranza verso l'attacco alla coppia omosessuale. Beh, per quanto riguarda Gheddafi, ho sentito la notizia mentre seguivo il TG dell'ora di pranzo e onestamente per un attimo sono rimasto attonito, nel senso ho detto ma sto capendo bene quello che diceva il giornalista, perché si pone il problema se deve o non deve andare, ma secondo me è chiaro che non debba andare perché si va a celebrare una persona che da 40 anni detiene il potere in un certo modo senza libere elezioni in Libia, che andiamo a festeggiare, solo perché Frattini dice che comunque rappresenta l'Unione Africana, allora dico dobbiamo arrivare a questo punto di quasi servilismo. Secondo me offende gli italiani, la Costituzione, dico già solo la presenza. Offende di... gli italiani il fatto che Berlusconi vada da Gheddafi. Certo, la nostra Costituzione che sicuramente è diversa dalla Costituzione libica. Dico, lasciamo stare le frecce tricolore, il discorso delle frecce tricolore, che è quello, secondo me, è una cosa così, diciamo, molto più diciamo di rilievo, dico, molto meno importante, sì, di soldi, non i soldi, ma la presenza del nostro premier, quindi che celebra 40 anni di potere di Gheddafi, ma in questi 40 anni Gheddafi come ha tenuto il potere? In che modo? In modo libero, in modo democratico? L'opposizione come l'ha trattata? Come viene trattata l'opposizione di tutti gli altri paesi europei? Cioè, dico, secondo me è un problema che neanche si dovrebbe porre questo. Non capisco, o meglio, capisco purtroppo, viste tutte le diverse concessioni che abbiamo anche fatto alla Libia, dico, alla fine ci andrà, ma io mi sento... Secondo offeso. Lei, insomma, è l'ennesimo atto di questo governo che va incontro alla Libia, tra l'altro non solo di questo, perché... Accordi commerciali ce ne sono sempre stati tra Italia e Libia, gli interessi economici e non solo comuni sono molteplici, insomma, che non avrebbe essere dovuto, non avremmo dovuto fare, perché insomma, visto il tipo di regime che c'è in Libia. Vabbè. Sì. Sicuramente, questa è una... Voleva aggiungere qualcosa. Sì, un'ultima cosa, è una cosa, questa come commento mio personale, per quanto possa valere, gravissima, proprio gravissima. L'altra cosa che volevo dire è sull'intolleranza verso la coppia omosessuale, dicevo praticamente durante, appunto, mentre parlavo con la signorina, che sono stato recentemente in Nord Europa, ho sentito che lei faceva in qualche riferimento anche alle fusioni, ora non so bene se ci sono state o non ci sono state, ma dico, che so, sono stato in Svezia, ma è prassi vedere fusioni tra coppie gay e coppie omosessuali, eppure non succede niente. Invece da noi questi episodi di intolleranza se inizia a sentire un po' troppi e con una certa cadenza, molto vicini tra di loro. Ecco, certe volte prendiamo esempio anche da qualche paese che sicuramente ha culturalmente da altri paesi. Va bene, grazie, grazie prego, anche prego, a questo ascoltatore che ci chiamava da Palermo. E salutiamo Giampaolo Panza, intanto buonasera. Buonasera a voi. Scrittore, editorialista, adesso per Il Riformista, e in un suo articolo di ieri sul Riformista, siccome in quest'estate si è parlato molto di paradisi fiscali, lei, Panza, dice con la crisi che c'è di questi tempi, insomma, i governi adesso stanno facendo sul serio sulla lotta all'evasione fiscale e anche l'Italia sta facendo i primi passi. Tra l'altro oggi sulla prima pagina del giornale segnalo un reportage: viaggio alla frontiera italo-svizzera, il Cummenda svuota il conto estero e si fa beccare, quasi 200 connazionali pescati con la ricevuta della banca in tasca, recuperati 12 milioni di euro. Lei, Panza, però dice adesso Tremonti, se fa sul serio, deve tirare fuori i nomi degli evasori. A me questa cosa ha colpito. Lei non è un fanatico in genere di posizioni estreme anche su questi argomenti, invece dice adesso no, bisogna proprio mettere il mostro in prima pagina. Perché? Ma perché c'è un vecchio motto che purtroppo era stato fatto proprio dalle Brigate Rosse, che diceva colpiscere uno per educarne 100. Una volta, se non sbaglio, c'era una legge manette di evasori, però francamente non mi ricordo se sia stato applicato o no, penso di no. Allora io non è che invoco le manette, invoco la pubblicità, perlomeno in alcuni casi clamorosi, alcuni li abbiamo già visti in passato, di gente che ha evaso il fisco in modo sistematico e per delle cifre imponenti. Allora a me sembra giusto che se la nostra Agenzia delle Entrate, che mi pare stia facendo un ottimo lavoro, e che soprattutto il Ministro per l'Economia Tremonti, che io stimo, è uno che si intende tra l'altro di questioni fiscali, e a un certo punto, quando avranno accettato che ci sono un numero di italiani che hanno nascosto i propri soldi, quindi anche i propri redditi in Svizzera, non ci hanno mai pagato le tasse, e venga smascherato, venga tirato fuori. Non ci vedo niente di eversivo, niente di di cattivo, niente di perverso, niente di crudele in una cosa di questo genere. Quindi in questo caso la questione della privacy non c'entra nulla, insomma, bisogna c'è forse un bisogno per dare un segnale, lei dice, anche ai contribuenti che insomma continuano sempre più stancamente. Ma io non lascerei perdere la storia della privacy. Facciamo un esempio: se un signore viene beccato a rapinare una banca e viene arrestato, e la polizia prima e i magistrati dopo accertano che è stato lui a fare quella rapina, che fa? Non diamo il suo nome per questione di privacy? Ma non scherziamo, la privacy è importante in migliaia di altre situazioni, ma non certo per chi commette dei reati. E a questo proposito, sempre da qualche settimana, c'è la vicenda della possibile frode da parte della famiglia Agnelli, emersa proprio in questi controlli che riguardano la Svizzera, con le dispute per l'eredità. Lei che insomma è stato anche osservatore della figura di Agnelli, che ne uscirebbe, come qualcuno ha sottolineato anche in questi giorni sulla stampa, peggio di quello che invece era stato dipinto fino ad oggi, le pare una vicenda credibile in qualche modo? Ma guardi, tanto per cominciare, è una vicenda vecchia. Io, in una mia rubrica per il Riformista, quella dell'altra settimana, era intitolata Evasione alla panna montata. La panna montata si riferiva a una vecchia battuta di Scalfari, che aveva definito l'avvocato Agnelli l'avvocato del panna montata, per questioni editoriali, perché aveva venduto la sua quota del Corriere della Sera Rizzoli, quindi secondo Scalfari a Eugenio Cefis. La figura dell'avvocato Agnelli è sotto, come dire, sotto impeachment, sotto inchiesta per le tasse da un sacco di tempo. Io in quella rubrica citavo che, ma mi è capitato per caso sotto mano, come tutti i vecchi giornalisti che sono stati abituati dai direttori, dai capi redattori a tenere un archivio per non essere impreparati quando ci sono delle emergenze descrittive, narrative su personaggi o situazioni, sono andato a prendermi la mia cartella sull'avvocato Agnelli. Il primo ritaglio che mi è venuto tra le mani era del 1970, attenzione, siamo 39 anni fa, era un articolo dell'Unità firmato da Diego Novelli, che poi 5 anni dopo sarebbe diventato sindaco di Torino, sì. Che diceva, raccontava che la questione delle imposte, la veniva chiamata così, della famiglia Agnelli, sarebbe finita in Parlamento, perché c'era tutto un dibattito se queste tasse erano reali, erano commisurate al reddito vero di quella famiglia e quindi dell'avvocato. Senta, io sono per natura un revisionista, come dicono i miei libracci, e quindi penso che chiunque di noi possa essere passato sotto la lente della revisione storica, anche della revisione della figura. Quindi io adesso non so come finirà la vicenda delle tasse non pagate dall'avvocato o dalla sua famiglia quando lui era in vita, in Svizzera o altrove, però mi sembra di capire che non è una storia così lineare. Un fondamento c'è e non sarebbe, ci sarebbe troppo da sorprenderci. Ma no, ma perché sorprende? Ma i ricchi si comportano di solito in questo modo, ma non solo i ricchi, ma insomma chiunque viva in una città italiana, anche in un paese, se va a mangiare per tre sere di seguito nello stesso ristorante, le prime due sere il proprietario ti fa la ricevuta fiscale. La terza sera, visto che ti conosci, ti schiaccia l'occhio e dice facciamo una cifra amichevole. A questo punto sei tu che devi dire, caro amico, no, fammi la ricevuta fiscale questa volta. Fermiamoci qua, perché sennò solleviamo poi le reazioni con gli sms, le telefonate degli ascoltatori, dei commercianti. C'è un altro argomento, se crede, su cui vorrei stuzzicarla, più politico, ed è un po' questa polemica che è nata sulla partecipazione o meno dei ministri del governo alla festa del Partito Democratico a Genova, dopo la battuta di Paganelli, l'organizzatore storico delle feste, che come sappiamo ha detto Berlusconi no, perché non è un festino ma è una festa, una battuta che a me è sembrata, bah, non lo so, forse di cattivo gusto, ma una ma guardi, innocente. Io conosco Paganelli da una vita, perché tanti anni fa venivo sempre invitato alla Festa Nazionale dell'Unità, e non credo che lui sia un organizzatore sprovveduto che è nato ieri, se non mi sbaglio l'ho conosciuto negli anni 80. Ma è una battutaccia che svela però uno stato d'animo, e confesso che se io fossi, a parte io non vengo più invitato ormai da anni alle feste dell'Unità, perché essendo un revisionista vengo considerato peggio di un criminale di quartiere, però se fossi un ministro del governo Berlusconi, io non andrei alla festa. Però c'è un punto, io questo lo capisco, perché c'è un clima. Vabbè, ma come si permette? C'è un clima non di dialogo, però quello che non la mi sembra. La lingua batte dove il dente duole, quindi Paganelli, inutile che dica di aver fatto una battuta. No, era... ha detto una cosa che dal suo punto di vista è vera e che corrisponde a uno stato d'animo molto diffuso. E forse è stato anche preventivo, perché magari sapeva già che qualche ministro non sarebbe andato e così ha creato un pretesto. Ma però... no, non lo credo, non lo faccio così doppio. Però da parte di Carfagna e anche Meloni, non di quei ministri che avevano già detto che non sarebbero andati, mi pare che ci sia un aspetto, non lo so, lo sottopongo anche alla sua attenzione, cioè non smarcarsi assolutamente in niente dalla figura del Premier. La battuta era sul Presidente del Consiglio, su Berlusconi, okay, sbagliata o giusta che sia, però ogni ministro ha un suo destino. Ma dovrebbe scusi, avere. Lei è un giornalista del Sole 24 Ore, se dicessero che Gianni Riotta fa dei festini e non è vero, lei cosa farebbe? Andrebbe a parlare o a scrivere per il giornale che ha detto questo? Non lo farebbe. Centrato in pieno, via. Ma parliamo, insomma, è una specie di buon senso. Io non penso mai, io non sono un dietrologo per natura. Sì. E in quel caso Paganelli ha detto una cosa che corrisponde al modo di pensare del 99% di quelli che andranno alla festa del PD a Genova. Quindi secondo me i ministri, ma non soltanto i ministri, ma anche gli intellettuali, chi lavora per Berlusconi, se è convinto che Berlusconi, parlo per loro, non per me, sia davvero vittima di una trappola mediatica, non ci vadano. Cavoli loro. Posso dire che mi sembra rilevante come argomento? Lo è sicuramente. Grazie Giampaolo Panza, buona serata. Grazie a lei e ai suoi ascoltatori. Grazie per essere stato 24. Con noi. 19.55, abbiamo ancora qualche minuto per sentire qualche ascoltatore prima dei titoli dei telegiornali, allora ne abbiamo in attesa già da molto. Cominciamo con Simone da Torino. Buonasera. Sì, buonasera. Prego. Io volevo intervenire rispetto appunto alla posizione di Alemanno sull'attacco, cioè sulla grave aggressione rispetto a due persone omosessuali. Io sono una persona omosessuale di Torino, convivo con un ragazzo da parecchi anni, viviamo una vita molto tranquilla, molto normale, molto integrata. Io penso che sia stata una cosa molto positiva il fatto che Alemanno abbia fatto questo intervento e questa presa di posizione, perché indubbiamente nell'aria, probabilmente soprattutto negli ultimi anni, io percepisco che stia crescendo una sorta di insofferenza rispetto all'omosessualità, e quindi anche il fatto che un esponente del centrodestra, anche molto riconosciuto, faccia una presa di posizione di questo genere, penso che sia una cosa molto molto positiva, anche perché poi si parlava di effusioni, però insomma queste effusioni venivano fatte nel contesto del Gay Village, che se è stato autorizzato, insomma, cioè nei pressi del Gay Village, che appunto magari i radioascoltatori si immaginano chissà che cosa, è un luogo. E che cos'è invece il Gay Village? Il Gay Village è praticamente un luogo di Roma che ogni anno varia come zona, ed è una sorta di grande parco estivo in cui ci sono una serie di discoteche, una serie di ristoranti, una serie di locali. Ma c'è qualcosa che può offendere, qualcuno ha detto, il pubblico, senso del pudore, oppure un'esagerazione in certe effusioni, che poi voglio dire possono essere esagerazioni anche tra eterosessuali, insomma, certo, certe cose in pubblico non si fanno. Io penso che su questo stia l'intelligenza delle persone, cioè io con il mio compagno indubbiamente non passiamo le giornate a sbaciucchiarci in giro, ma naturalmente se capita che siamo anche in un ristorante, se in un momento per una battuta, per una parola, può capitare che scappi una carezza sul viso, insomma, naturalmente su questo, ma questo è normale, si fa sempre molta attenzione. Il Gay Village è un posto appunto assolutamente dove io conosco un sacco di gente di Roma, anche tantissimi eterosessuali, e quasi sta diventando quasi un luogo cult dell'estate romana, nel senso che indubbiamente i più famosi DJ, le più famose serate si concentrano all'interno del Gay Village, e tantissimo è frequentato da anche persone eterosessuali. Non è assolutamente da immaginare come un luogo dove la gente va lì, vengano una. Senta, lei ci dobbiamo fermare, le faccio una domanda, mi risponde dopo. Ha sentito l'intervento che abbiamo fatto sentire di un ascoltatore su Radio Padania? Allucinante. Allucinante. TG1. Afghanistan, attacco contro gli italiani, nessun ferito, la Russia, nessun aumento del contingente, scelte in accordo con alleati. Sotto controllo gli incendi in Grecia, Canadair al lavoro, intere colline andate in fumo, salvato dalle fiamme un monastero. Immigrati indagati, gli eritrei superstiti, l'Unione Europea, stiamo lavorando. Frattini, bene l'impegno europeo, Franceschini alla festa del PD. Chiesto l'arresto per l'uomo che ha picchiato i due omosessuali a Roma. Nuovo caso di omofobia a Rimini, aggrediti due giovani. Mai guidare scrivendo SMS, è più pericoloso dell'abuso di alcol e perfino della droga, dice uno studio americano. Ultima giornata del contro esodo, ma molti italiani troveranno caldo torrido in città, con temperature fino a 40 gradi nel centro-sud. E ora invece sentiamo i titoli del TG5. Militari italiani nel mirino dei talebani, una bomba scoppia al passaggio di un mezzo blindato a Farah dopo alcune ore imboscata a Shiwan, nessun ferito. Sacconi rilancia i salari aziendali, Sida Bonanni della CISL e Angeletti della UIL critica la CGIL, al nord riaprono le grandi fabbriche. La Commissione europea presenterà le proposte per ridistribuire i rifugiati nei paesi dell'Unione, come chiesto da Frattini, i cinque eritrei indagati per immigrazione clandestina. Si attenua la forza del vento, intorno ad Atene i roghi sono sotto controllo, resta alta la paura, decisivo l'intervento internazionale. Viveva in un bunker sorvegliato con telecamere, il re dello spaccio di Scampia a Napoli, il nascondiglio collegato con l'esterno da un cunicolo sotterraneo. Il centro-sud nella morsa dell'AFA, mercoledì sarà la giornata più calda, bollino rosso in sette città, Roma e Messina sfioreranno i 40 gradi. Dai vestiti per bambini ai mobili, ai libri, agli elettrodomestici, è il gran ritorno dell'usato. Roma guida la classifica, poi Milano e Napoli. Questi erano dunque i titoli del TG5. Avete sentito come si evidenziava che da parte della Commissione europea c'è una proposta per una ripartizione più equa nei vari paesi dell'Unione dei rifugiati politici che approdano quasi sempre dall'Italia, dalla Grecia e dalla Spagna, e quindi una proposta operativa da parte di Bruxelles dopo che oggi c'è stato questo braccio di ferro tra Frattini e Bruxelles, appunto. Sentiamo forse anche i titoli del TG della 7? Sì, sentiamo. Le truppe italiane nel mirino dei talebani in Afghanistan. Prima un ordigno contro un blindato, poi un'imboscata ad una pattuglia di Farah con scontro a fuoco. Nessun ferito. In un video diffuso da Al Jazeera, i talebani rapiscono alcuni elettori. A pochi giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la denuncia delle associazioni dei consumatori. La scuola è sempre più cara, si spenderà fino a 900 euro a studente. Il Ministero in 3 anni la spesa diminuirà del 30%. Arriva la richiesta di arresto per l'uomo che a Roma ha coltellato due giovani gay. Sempre grave e in prognosi riservata una delle vittime dell'aggressione. Malumori in casa Inter per l'esordio deludente in campionato. Moratti punzecca Mourinho, ci vuole più pazienza ed è già polemica per gli arbitraggi. E allora, come avete sentito, è ancora in prognosi riservata uno dei due ragazzi gay aggrediti a Roma. Abbiamo ancora in linea Simone da Torino che stava intervenendo proprio su questo argomento e le ho chiesto di commentare, prima però lo farei risentire, l'intervento che noi abbiamo lanciato all'inizio della trasmissione di un ascoltatore di Radio Padania che è intervenuto molto molto duramente, lo premetto, su questo argomento. E tra l'altro a questo punto aggiungiamo, visto che abbiamo avuto una telefonata che su questo ci aveva ripreso, che non c'è alcuna intenzione di voler rappresentare tutta la Lega, tutta la Radio Padania in questo modo, insomma è un ascoltatore che è stato passato e quindi è un frammento estrapolato e ha il valore che ha, insomma risentiamolo e poi sentiamo Simone, sentiamo. Pronto, buongiorno, Padania. Salve. Allora, io mi voglio finire la storia dei culattoni di Roma, eccetera. Cioè, io praticamente sono contro accoltellamenti vari, per carità. Cioè, accoltellare è tentato omicidio. Quello è troppo. Però due calci nel culo, quello sì, l'avrei fatto anch'io in mezzo alla strada. Che è inammissibile che... Cioè, io porto spesso i miei bambini, cioè, vedendo due persone dello stesso sesso che si baciano. Cioè, è una schifezza incredibile. Cioè, due calci nelle palle, se ne hanno meno, le avrei date anch'io. Non accoltellare. Calci nel culo, sì. Una schifetta comunque, ciao. Io ho detto all'ascoltatore leghista che era intervenuto poco fa che la trovavo una cosa molto pesante, tra l'altro c'era anche un po' la risata del conduttore che invece di stigmatizzare evidentemente in qualche modo forse anche, non dico condivideva, ma lasciava correre. Simone, a lei che impressione fa parole di questo tipo? Io penso che sia veramente allucinante, soprattutto per quell'aspetto che diceva, cioè il fatto che si sentisse questa risata del conduttore, no? Che in qualche modo non stoppasse, non moderasse questo intervento. Per entrare nello specifico dell'intervento, forse a una persona del genere risponderei che se suo figlio vedesse due persone dello stesso sesso che si baciano e lo fanno in modo amoroso, sarebbe una bellissima lezione per insegnare che la diversità forse può avere mille sfaccettature. Se due persone si amano, forse anche due persone dello stesso sesso hanno il diritto di vivere la loro passione. Cioè, sarebbe una grandissima, forse più che far assistere ai figli alla scena del padre inferocito che cerca di beccare nel sedere i due omosessuali. Non so, io porto la mia esperienza, appunto, io vivo una vita molto integrata, molto, molto serena, per scelta con il mio compagno non ci siamo mai né ghettizzati né nascosti, le nostre famiglie sanno, viviamo in contesti lavorativi dove non abbiamo mai subito discriminazioni, quindi quando si dice che in Italia è impossibile una vita gay, secondo me si esagera. Indubbiamente ci sono tantissimi aspetti dove, cioè, questi episodi di cronaca fanno paura, perché a volte ci si chiede magari, appunto, se potrebbe capitare che una sera, uscendo magari tranquillamente da un locale, un matto ti accoltella semplicemente per il fatto che tu sei innamorato di un'altra persona dello stesso sesso. Grazie Simone da Torino. Sentiamo un po' di vostri interventi. Riprendiamo da Angelo che ci chiama da Roma. Buonasera. Buonasera, pensavo. Un po' di attesa, non ce ne siamo dimenticati, solo che gli interventi... Insomma... Senta, io volevo fare tre interventi molto veloci, se me lo consente. Sì. Punto primo, il fatto di Gheddafi, anche D'Alema dice che è un fattore strategico, non rientra lì neanche nel discorso del senso dello Stato, ma della ragione di Stato. Quindi è inutile fare queste polemiche se Berlusconi ci... Bisogna anche convincere il PD a non mandare Berlusconi. Io volevo dire questo. Ricordiamoci che D'Alema ha detto che con la Libia non andarci d'accordo perché è un fattore strategico, di strategia, ragione di Stato. Punto secondo, io sono intervenuto per cui... Pronto, mi sente? Sì, la sentiamo perfettamente. Ah, no. A Ferragosto è stata fatta una conferenza stampa da Maroni, Lega, Berlusconi e Alfano, dicendo che la criminalità in percentuale si è abbassata. Del non so quanti, ho fatto tutte statistiche, eccetera. Sì, il numero di reati è diminuito e è aumentato invece il numero di denunce. Invece in tre anni io vedo che le carceri sono aumentate delle 22.000 unità. Cioè, ma se diminuisce la delinquenza, dovrebbero diminuire, secondo me, anche i delinquenti in carcere, no? Non è così automatico, però. Ci faccia un attimo un pensiero. I reati sono tanti, poi ci sono le denunce, poi ci sono gli arresti che vanno su un binario per conto loro. E poi, insomma, la gente nelle carceri purtroppo si accumula e quindi basta poco perché aumenti. Un'altra percentuale che volevo fare. Ma lei lo sa, quando è stato fatto l'indulto? Si parla di indulto, sembrava chissà che avessero fatto... Ma sono più quelli che rientrano nelle carceri, quelli che hanno scontato del tutto la pena, sono il 75% rispetto al 25% che hanno usufruito dell'indulto. Cioè, qui, vedendo, forse anche questo è un discorso culturale, dire, fare, tutto bene, poi andando a vedere le statistiche, cioè... Tutto il contrario di quello che dicono i politici. Un'altra cosa, amici della Lega, ma che vedevano fare i familiari di quegli eritrei che sono stati ammazzati per causa vostra? 75 persone ne sono arrivate 5. Ma io vi metterei nelle mani dei genitori di quei poracci che sono morti per un tozzo di pane. Vabbè, ammazzati per causa vostra, forse ora è un po' troppo. Ma loro però hanno voluto, cioè, se immagini le leggi che hanno fatto, cioè invece di dargli un pezzo di pane, un bicchiere d'acqua e mandarli magari cercare di fare, almeno in primis, un intervento così per cercare di farli stare bene, addirittura neanche riprendono in acqua. Ma la Lega sono stati, quindi quello che dice io un calcio in culo, ma pensate alle cattiverie, alle cose, non state a guardare i gay che ormai appartengono al nostro presente, non guardate le persone, guardate quello che voi legiferate, una cosa scandalosa a livello sociale. Io volevo dire solo questo, scusi, sfogo. Lo sfogo è benvenuto, insomma, se ben espresso. Come tutto sommato in questo caso. Antonella da Venezia, buonasera, prego. Sì, buonasera, volevo intervenire anch'io sulla telefonata che ho sentito prima di Radio Padania. Io abito in una zona nella terraferma di Venezia dove per la strada ci sono tantissime prostitute. Quando passo con i miei figli, trovo più difficile spiegare una cosa del genere che spiegare ai miei figli se incontro una coppia gay o che si fa delle fusioni, perché l'amore va accettato, mentre certe cose come si possono spiegare ai bambini? L'intolleranza, secondo me, va combattuta, e specialmente quando porta alla violenza. Sì, ma nel caso di Roma, nel caso dei due ragazzi che si stavano scambiando qualche bacio nei pressi del Gay Village, io non lo so, insomma, non è che le chiedo un'opinione su questo, però mi sembra che lei faccia un'associazione, cioè lei dice che anche una manifestazione come quella degli omosessuali a Roma possa urtare alcune sensibilità. Trovo che non dovrebbe urtare, voglio dire, c'è un limite a tutto. E... allora avevo capito male, mi scusi. Sì, forse mi sono spiegata io male. Comunque c'è quando una manifestazione comporta un atto d'amore, secondo me è sempre spiegabile, che sia una coppia etero, che sia una coppia omosessuale, non cambia, è una cosa che va accettata e può essere spiegata. Soprattutto ai bambini. Ci sono cose che secondo me invece non però è, ma non nel senso di violenza, nel senso di evitare che succedano, perché le dico, se la strada è piena di prostitute, quello lì è accettabile, però io non, cioè c'è gente che lo tollera, non parlo di violenza. Va bene, grazie Antonella, che ci chiamava da Venezia. Andiamo a Bologna. Antonio, buonasera. Sì, buonasera. Prego. Buonasera a lei. E prima di tutto, complimenti, la ritroviamo qui alla Zanzara, perché mi sembra che lei sia già venuto qualche volta in istituzione di Cusciani. Sì, sì, sì. E complimenti per il carattere. Grazie. È davvero molto, molto solido, complimenti ancora. Poi, una cosa anch'io a proposito di questo pestaggio agli omosessuali, e come diceva la redattrice prima, mi sembra che si stiano facendo dei passi indietro tremendi, e mi sembra anche che gli omosessuali border latenti siano molto più degli omosessuali dichiarati, perché senza essere uno psicologo, uno psicanalista, mi viene da pensare che ci sia molta, molta delicatezza nella mascolinità di certe persone, insomma, come si dice, no? Detestiamo negli altri quello che pensiamo di essere noi stessi, ecco. E mi sembra così assurdo picchiare, perseguire una persona solo per l'inclinazione sessuale, che non si sceglie, l'inclinazione sessuale è quella dalla nascita e quindi è di una normalità totale. Ecco, ma secondo lei, visto che abbiamo fatto sentire l'intervento del sindaco di Roma Alemanno, che parlava di un sottofondo di ostilità nei confronti degli omosessuali, c'è in Italia, è aumentato, è diminuito, cosa ne pensi? Secondo me è aumentato, ma io poi ho delle mie piccole fantasie, nel senso che negli ultimi anni, dal punto di vista della comunicazione, che è il mio lavoro, comunicazione pubblicitaria, si è proposto questo modello di uomo, no, muscoloso, lucidissimo, senza peli, possibilmente tatuato, una specie di corona, tanto per dare un esempio fisico, che poi possa piacere a tutti, alle mamme, alle ragazze, agli uomini, eccetera. Questi maschi un po' di plastica, secondo me sono così delicati dal punto di vista della loro mascolinità, non so se riesco a spiegarmi, perché come dicevo sono un po'... Sì, lei dice, insomma, c'è un modello di maschile molto forte, che poi forte in realtà nella sostanza, esatto, non è. Già il macismo è ridicolo. Lei dice, mi scusi un attimo, lei dice che non è forte questo modello d'uomo, perché poi basta una provocazione, perché aggredisce, basta un'effusione in pubblico. Aspetti un secondo, resti in linea con noi, perché dobbiamo dare la linea alle informazioni sul traffico. Continuiamo a sentire gli ascoltatori, abbiamo Antonio da Bologna. Io tra l'altro devo dire che rispetto a quello che stava dicendo lei, condivido un aspetto, cioè a me colpisce che di fronte all'effusione tra due persone dello dello stesso sesso si possa rimanere anche imbarazzati, rimanere turbati, però la mia reazione non è sicuramente quella di scattare con violenza e aggredire quella persona. Allora mi domando che cosa avviene anche nella mente forse dell'aggressore, che tra l'altro ci dicono, insomma, a Roma la procura gli inquirenti stanno arrestando quest'uomo di 40 anni. Che cosa avviene nella mente di una persona? Lei fa un'ipotesi, lei dice un modello di maschilità, di mascolinità così forte che poi però frana di fronte ai turbamenti, alle paure, come può essere anche trovarsi di fronte a due gay, lì crolla tutto e la reazione è quella dell'aggressività. È questo che lei dice? Sì, esattamente, ha sintetizzato bene il mio ragionamento, che come dicevo è molto, molto mio, molto intimo, per cui magari esplicarlo così in pubblico per radio non è così semplice. Attenzione, io per quel che riguarda il mio piccolo mondo sono eterosessuale, adoro le donne, cioè mi piacciono, mi piace tutto delle donne, per cui non ho nessuna crepa nella mia identità, certo, maschile. Per cui anche a me magari vedere due uomini che fanno delle fusioni può turbare, ma è un turbamento mio personale, mi giro dall'altra parte. Ultima cosa, per non tenere troppo spazio, questo signore qui alle 4 del mattino ha detto, da quello che mi ricordo di aver letto sui giornali, che si è indignato perché aveva in macchina due minorenni, e uno che va in giro con due minorenni alle 4 del mattino gli toglie la patria potestà come minimo se erano suoi figli. Vabbè, questo adesso mi sembra, va bene, grazie comunque Antonio da Bologna per il suo intervento. Andiamo a Fernando che ci chiama da Chieti, buonasera. Ci sente Fernando? No, andiamo a Paolo dalla provincia di Lucca, buonasera, benvenuto. Buonasera. Prego. Pronto? La mia è una riflessione bonaria sui dialetti e le diversità delle singole regioni. Sì. Noi spingiamo su tutti i prodotti per il DOP, la denominazione di origine protetta, cioè la peculiarità di ogni zona è determinata da questo DOP, cioè avere il pecorino della Toscana Garfagnino, il pomodoro di Pachino, quindi non vedo, cioè, come esaltiamo le singole peculiarità regionali o locali, non vedo che il problema ci sia sul dialetto, mi sembra, io quando giro il mondo. Sì, non vede che cosa, sì, non vede che problema ci sia sul dialetto, lei a che cosa si riferisce? Mi spiego, se io esalto l'uso del dialetto nelle scuole, la localizzazione oppure di un prodotto, non vedo perché debba farmi meraviglia perché voglio esaltare anche il dialetto locale. Io sono toscano, se sento sì, ma dove, mi scusi, dove sta come mangio i prodotti delle varie zone, mi segue, che voglio dire, sì, però non capisco lei fin dove si strabismo. Mi scusi, cioè, esaltiamo il prodotto locale, ci informiamo, facciamo i disciplinari su questo, su quella. Mi scusi però, mi scusi un attimo, mi ascolti un secondo, perché altrimenti credo che gli ascoltatori non ci abbiano capito nulla. Lei dice, così come per tante cose le peculiarità regionali vengono evidenziate, esaltate, si può fare anche per il dialetto, non vedo cosa c'è di strano. Neanche io, e credo neanche gli ascoltatori sin qua. Non capisco lei fin dove si spinge, perché di proposte in tema di dialetti se ne sono sentite tante, da insegniamolo nelle scuole a, come per esempio stasera il ministro Zaia, non mi scandalizzerei se il TG regionale fosse fatto in dialetto. Lei per esempio si scandalizzerebbe? Mi scusi, lei sceglie certi prodotti in base alla zona dove vengono prodotti, la mozzarella di bufala del napoletano, pomodoro di Pachino, sì, questo l'ha chiarito perfettamente, il pecorino sardo, sì. E quindi dico, sono particolarità locali che vengono esaltate, che lei accetta, anzi le cerca in maniera, mi segue? Sì, la seguo e la ringrazio anche per il suo intervento, che però non riuscivo a portare a compimento, almeno dal mio punto di vista. Grazie comunque anche a questo ascoltatore. Andiamo a una telefonata che, se non leggo male dal display, ci arriva da Fondi, la città che noi abbiamo tirato in ballo con l'onorevole Granata, e parlavamo di possibile scioglimento del comune per infiltrazioni mafiose. Non so se Vincenzo, che ci chiama da Fondi, vuole intervenire anche su questo. Prego. Sì, io volevo intervenire su questo intanto per esprimere un mio apprezzamento nei confronti dell'onorevole che è intervenuto alla vostra trasmissione. Fabio Granata, sì. Al di fuori di ogni legame di appartenenza ha detto liberamente quello che pensava. Purtroppo però stiamo vivendo un momento di crisi istituzionale che mai avremmo voluto che accadesse, cioè abbiamo una parte che si schiera troppo apertamente contro la mafia e un'altra parte che invece cerca di farlo in maniera timida, con un ministro come Maroni che ha detto chiaramente più di una volta quali sono le sue volontà e un presidente del Consiglio che invece lo ha quasi delegittimato dicendo che se non ci sono le condizioni per sciogliere meglio riflettere bene sul fatto che non ci siano inquisiti nel Consiglio d'amministrazione. Bene, io ritengo che l'antimafia debba essere di tutti, non possa essere identificata nella destra o nella sinistra. Guai se questo dovesse accadere, però purtroppo quello che viviamo oggi come cittadini di fondi è questo stragrande schieramento di un centrodestra che da noi ha una fortissima rappresentanza elettorale e che assolutamente vedrebbe con lo scioglimento del Comune di Fondi compromesso probabilmente il nome di qualche noto personaggio politico. Questo non deve essere, vorremmo che fosse il contrario. Cioè lei dice che non si sta sciogliendo il Comune semplicemente perché c'è di mezzo qualche pezzo grosso della politica magari anche nazionale del centrodestra. Sì. Assolutamente sì, perché è un... il nostro è un elettorato dove il centrodestra rappresenta la stragrande maggioranza degli elettori, vivono con una maggioranza che è veramente fortissima, ma non è di questo che voglio parlare. Però mi spieghi un attimo, però, da cittadino di Fondi, sì, appunto, che realtà si vive, di cosa si parla nei bar tra la gente, di questa vicenda che è venuta agli onori della cronaca nazionale, per dire la verità, solo lambita, però insomma se ne è parlato. Non c'è sorpresa sul fatto che se ne parli. Mm. Però vede, volendo usare la frase che ha usato il sindaco Alemanno, da noi c'è un sottofondo di ostilità alla legalità istituzionale. Questo è quello che si respira tra i cittadini, nel senso che c'è una rassegnazione del fatto che chi detiene il potere, soprattutto nella nostra provincia, può fare il bello e il cattivo tempo sotto tutti i punti di vista. Perché? Perché quel potere gli è dato da una maggioranza veramente fortissima e quindi può permettere di fare tutto ed il contrario di tutto. Questa è la vera preoccupazione che vivono tutti, tant'è che si ha quasi il timore di dire liberamente ognuno la propria idea, quando invece in una democrazia, viva Dio, come quella italiana, bisognerebbe proprio fare questo, cioè esprimere liberamente senza voler essere vincolati ciascuno al proprio partito politico, se questo dovesse essere, ma ciascuno ha le proprie idee. Questo non accade, si ha il timore che schierarsi a favore o contro lo scioglimento, io ripeto, non sono né a favore né contro, però sono per il rispetto delle istituzioni. Quando le istituzioni rappresentate da un prefetto con una relazione che si dice che sia abbastanza nutrita e condivisa da parecchi dell'antimafia, dal ministro degli interni che è la figura istituzionale più alta per esprimere un parere in tal senso, beh, è chiaro che è sorprendente sentire poi il Presidente del Consiglio che invece dice tutt'altra cosa. Va bene, grazie, questo concetto l'ha già espresso. Sì, prego, finisca. Mi lascio concludere. Sì. La cosa che è accaduto e che nessuno dice è che per la prima volta, io direi da quando esiste la Repubblica, si è passati ad applicare una legge prima ancora che quella legge venisse promulgata. Cioè il Presidente della Repubblica non aveva ancora firmato la riforma che il Parlamento aveva proposto, quella anche sullo scioglimento dei consigli comunali, che il Consiglio dei Ministri ha deciso il caso Fondi lo tratteremo con la legge che sta per essere firmata dal Capo dello Stato. Questa è una cosa mai avvenuta e credo che in democrazia non dovrebbe accadere. Va bene, grazie anche a questo ascoltatore. Adesso invece vogliamo distrarci un attimo, sognare un po'. Andiamo, dove andiamo? A Bagnone, in provincia di Massa Carrara. Salutiamo il sindaco Gianfranco Lazzeroni. Buonasera. Buonasera a tutti voi. È il paese che in questo momento è in fibrillazione, il paese dove la città dove adesso insomma siamo tutti alla ricerca, chi sarà l'imprenditore oppure il primo sospettato, Ugo Verni, l'ex direttore dell'ufficio postale, lei sicuramente lo saprà, sicuramente non ce lo dirà, ma forse è anche giusto che non si dica chi è il vincitore del super jackpot, del super enalotto. Io in verità non lo so, anche se lo sapessi, è vero che non ve lo direi. I nomi che sono usciti e sono di persone che io conosco da una vita e che ho incontrato in questi giorni, non mi sembrano persone con uno stato d'animo di chi ha avuto un colpo di fortuna così particolare. Bisogna vedere se questo stato d'animo è ravvisabile, perché magari l'emozione è talmente tanta che viene un momento di freddezza totale, anche perché qua bisogna proteggersi dal fisco forse anche, no? Oltre che dagli amici che pretendono mance. Quello probabilmente difendersi da tutta una situazione che si viene creando. Dal fisco non credo, perché siano già tassati queste somme e che negli anni successivi verrà tassata la rendita, quindi no, credo che sia più un problema dei meccanismi che si possono innescare nei confronti di chi ha ricevuto questa enorme somma di denaro, enorme proprio, la differenza la fa proprio questa enormità, e quindi aspetti psicologici, aspetti anche che possono riguardare la sicurezza, non c'è dubbio. Bisogna essere, secondo me, molto accorti a gestire una situazione di questo genere, molto accorti, avere la consapevolezza della fortuna che uno ha effettivamente avuto, è incredibile. Ma credo che anche avere un attimo di generosità, nel senso di avere anche la soddisfazione di poter con questa somma risolvere, fare qualcosa per gli altri. Lei, tra l'altro, lo dico bonariamente, si è messo in lista, no? Ha detto, beh, insomma, si metta una mano sulla coscienza chiunque ha vinto, tra l'altro, in questo smentendo categoricamente che possa essere lei il vincitore, perché altrimenti non l'avrebbe detto. E ha detto, beh, insomma, chi ha vinto dia una mano anche al comune, perché qua i comuni sono indebitati e si può fare molto. C'è la sensazione, il vostro è un paese piccolo, quanti abitanti? 2000. Beh, insomma, è davvero difficile, penso, per il vincitore nascondersi, anche se giustamente è quello che sta cercando di fare. Però la sensazione di dire ha vinto lui, ma essendo il vicino di casa, l'amico, il cognato, il sindaco, un po' di questo montepremi che è davvero strabiliante andrà a spargersi attorno. Lei che cosa chiede al vincitore? Allora, sì, è vero che siamo in 2000, in questo momento però, essendo un comune turistico, triplichiamo, quindi di passaggi ce ne sono molti qua. Io mi auguro che sia un milanese oppure un emigrato che è tornato. Comunque, senz'altro, qualcuno che da questo momento di grande fortuna possa pensare anche di premiare la città che questa fortuna gliel'ha concretizzata. Io chiederei, senza andare a toccare il capitale che questo signore ha, con gli interessi che avrà da questo capitale, con una parte di questi, di aprire un mutuo e darci a fare delle opere pubbliche. Va bene, grazie. Tra l'altro, gli interessi che qualcuno calcolava oggi sui giornali piuttosto cospicui nei giorni che mancano di qui alla riscossione potrebbero essere diverse decine di migliaia di euro. Grazie al sindaco di Bagnone, in provincia di Massa Carrara. TG2. Obama, svolta nella lotta al terrorismo, basta torture, niente più interrogatori affidati alla CIA. Se ne occuperà l'FBI, via le inchieste su abusi in Iraq e Afghanistan. Italiani sotto tiro in Afghanistan, due attacchi nel giro di poche ore, nessun ferito, spunta un video. Afghani rapiti dai talebani, la colpa, avevano appena votato alle presidenziali. A tre giorni dall'aggressione alla coppia gay a Roma, la procura chiede l'arresto dell'uomo denunciato, caccia ai complici, la soddisfazione di Alemanno. Bunker nel cuore di Scampia, a Napoli, preso un boss della camorra, frigo, TV, telecamere, la via di fuga, un tunnel di 200 metri verso la campagna aperta. Cresce il mercato del quasi nuovo, solo a Roma circa 400 negozi, si risparmia anche il 50% e si trova di tutto, dai vestiti ai mobili. Su internet invece si vendono telefonini, computer e televisori al plasma. 20:33, allora come detto riprendiamo con i vostri interventi all'800 24 00 24 e riprendiamo da Davide che ci chiama da Trento. Buonasera. Sì, buonasera. Sto chiamando da Treviso, non da Trento. Allora mi dispiace, correggiamo. No, Treviso, Davide. Treviso. Io comunque la chiamavo per il discorso degli omosessuali, della violenza sessuale degli omosessuali, che poi qualcuno adesso, vabbè, al di là della telefonata di quel probabilmente padano della Padania o quello che sia, diciamo, della radio, di Radio Padania, che appunto è povero ignorante, diciamo, perché fondamentalmente non ignora, diciamo, l'eventualità di sessi o di maniera di vedere la vita in un'altra, diciamo, con un'altra sessualità. Il punto cruciale, forse, io sono etero, sono contento di esserlo fondamentalmente, va bene questo così però per non me. Ci interessa, prego, sì. Ho avuto in passato molti amici perché ho abitato a Londra e in altri paesi diciamo fuori dall'Italia e ho conosciuto forse fortunatamente prima di questo signore anche che ha telefonato a Radio Padania le diversità che ci sono nel mondo e tendenzialmente credo che sia più legato a un discorso di ignoranza globale di alcune persone e non non penso che sia legato a politica di sinistra, di destra o di della Lega di chi per esso, tanto come non sono sportivi coloro che allo stadio vanno a pestare qualcun altro solo perché è di un'altra squadra, ecco, tendenzialmente io anche la persona che poc'anzi alla telefonata di poc'anzi che diceva ad esempio discorso anche del che non c'entra niente con i gay del mio discorso, ma che diceva che ad esempio quelli della Lega dovrebbero andare a dar da mangiare pane d'acqua piuttosto che farà uccidere i 75 che sono morti, che disperati, poverini, diciamo. Però io oltretutto sono anch'io della Lega, ma volevo semplicemente dire che anche questa persona qui, che cioè, è un commento che sinceramente lascia il tempo che trova, perché non è sicuramente la Lega o altre persone del nord Italia che vogliono vedere morti gli africani che vogliono attraversare il Mediterraneo. La realtà è che forse la politica dovrebbe intervenire come negli ultimi 60 anni non ha mai fatto. Dopo il piano Marshall per l'Europa, l'Europa forse non ha creato un piano Marshall per l'Africa. Quindi lei dice che la chiave di tutto per quanto riguarda la questione degli immigrati è aiutare i paesi poveri, insomma, in sostanza. Sì, ma non aiutarli, diciamo. Ecco, il discorso di anche come il personaggio che poc'anzi era al telefono, che viene fuori con una frase del tipo che me la posso aspettare da una diciottenne che vince Miss Italia dicendo voglio la pace nel mondo e da mangiare per i bambini poveri. Al di là di questa stupidaggine che sappiamo tutti quanti che è un'utopia, forse è più realistico cercare di inquadrare il problema dicendo cosa manca, l'acqua, ok, insegniamo, creiamo diciamo aziende. Io non sono neanche uno che si scandalizza a sapere che in Africa, in India o in altri paesi del mondo ci sono i bambini che lavorano, lo facevano anche da noi 30 anni, 40 anni fa. Vabbè, insomma, il tema della cooperazione, questo che lei solleva come già qualche altro ascoltatore prima di lei, poco fa. Grazie. Andiamo a Sergio che ci chiama dalla provincia di Pavia. Buonasera. Buonasera. Prego. Telefonavo soltanto per parlare della Lega, diciamo che io vedo la Lega come una forza positiva, diciamo, in Italia, però volevo anche sottolineare che quando la persona che ha telefonato precedentemente, che dice noi della Lega non abbiamo mai commesso nulla, soltanto quelli di sinistra o quelli di destra ci hanno attaccato, no? Mentre invece bisogna ricordare i casi Borghezio, i vari casi Borghezio che andava a disinfestare immigrati sui treni, andava a spruzzarli dei prodotti per disinfestare non il treno ma le persone stesse, quindi degli immigrati che poi sì, oddio, l'ascoltatore si riferiva a veri e propri atti di violenza, quello sì, di Borghezio era un atto violenza, offensivo, cioè, se vogliamo, ma che non recava danni insomma alle persone. Sì, vabbè, però se uno va a spruzzare è una distinzione che va fatta, persone, insomma, diciamo che non è, secondo me è un atto di violenza, poi non so cosa. Ma quindi il senso del suo intervento, cioè, quindi io pur vedendo la Lega come una forza positiva che in certi casi può avere ragione, però ci sono stati di estremismi anche nella Lega, ci sono ancora ora, quindi estremizzare poi il discorso, noi della Lega siamo immuni da tutto, ma gli altri ci attaccano, ma noi non abbiamo mai fatto nulla, forse è... Oltretutto bisogna ricordare che comunque la violenza verbale è una delle violenze che viene sottolineata da diversi filosofi come... le parole come pietre, non è che è una frase che dico io, è stata usata da altri. Ma io direi soprattutto le parole come pietre se associate alle coltellate, come è successo a Roma, perché altrimenti le parole sono sicuramente possono essere pietre, però lasciano il tempo che trovano. La Lega da questo punto di vista di atti simbolici anche di una certa aggressività ne compie, però forse una cosa la condivido con quell'ascoltatore, insomma non è quello della Lega, almeno quel che risulta anche dalle cronache, un movimento insomma che si sia mai voluto distinguere per delle azioni di violenza rispetto a chiunque, insomma. Comunque, grazie anche a lei per il suo intervento. Dove andiamo? Andiamo ancora più a sud? Andiamo in provincia di Bari. Riccardo, buonasera. Buonasera, senta, il mio intervento è per dare una risposta a Calogero, che chiamava da Palermo, se non vado errato. Oh mamma, che diceva Calogero però, ce lo ricordi? Perché andiamo in tilt. Che Berlusconi non doveva andare in Libia. Ah, va bene, la sì. La Libia è un paese... Parliamo delle celebrazioni che riguardano Gheddafi tra qualche giorno. Non dovrebbero sì. andare nessun capo di Stato in Cina, visto che è un paese totalitario, impiccano non so quante persone al mese... Quindi non vedo il problema dove sta. Se non si dovrebbero avere rapporti con i paesi totalitari, dovremmo fare un altro muro di Berlino. Da una parte i paesi totalitari e dall'altra quelli più civili. Quindi non vedo il problema che Berlusconi non dovrebbe andare in Libia. Poi vabbè, è vero che con la Cina ci si è posti il problema, si ricorda quando c'erano le Olimpiadi, esponenti tra l'altro anche del centrodestra, avevano invitato gli atleti a non sfilare in parata proprio per la questione dei diritti umani, qualche dubbio era stato sollevato anche allora. Alla fine comunque ci sono rapporti commerciali con la Cina, perché ci devono essere, e quindi... Prevale la ragione commerciale, la ragione economica, insomma, la dice. Va bene, grazie anche a lei. Andiamo a Renzo che ci chiama da Ascoli Piceno, buonasera. Buonasera. Prego. Senta, a proposito di quelli che portano i soldi in Svizzera, Agnelli, evasori fiscali, malaffare e altro, ma gli svizzeri non sono complici di questi ladri? Come facciamo a supportare questo popolo che sfrutta il denaro proveniente da gente che va delle tasse e che magari appunto porta i soldi svizzeri per riciclarli? A me questi svizzeri, che non sono mai entrati per esempio nell'Unione Europea perché si ritengono, credo, superiori, non vogliono compromettersi. Cioè lei ce l'ha proprio con tutti gli svizzeri, insomma. No, ma son complici dei ladri. Non è ricettazione questa? Come si chiama? Nel codice penale italiano si chiama ricettazione. Sono dei ladri. Lo dico chiaramente, spero che qualcuno mi senta. Perché... No, ma la sentono tutti. Tra l'altro, prendiamo un caso, quello della UBS, la banca svizzera. C'è un contenzioso che adesso è stato risolto con un accordo con le autorità americane proprio per quello che diceva lei, insomma, magari in termini più tecnici, attraverso rogatorie e questioni giudiziarie, ma insomma l'accusa era sostanzialmente quella. Poi lì è stato trovato un accordo. Vabbè, insomma, a lei gli svizzeri non piacciono anche perché non sono entrati in Europa? Anche, io non capisco perché c'è questa bella Europa tutta unita, c'è questa macchia in mezzo, gli svizzeri che non sono entrati, non hanno mai detto perché, non hanno mai fatto la richiesta di entrare, ma non hanno mai detto perché non sono mai voluti entrare. Secondo me è un atto di superbia, perché ci ritiene tutti inferiori, gli svizzeri sono superiori, però campano appunto facendo da ricettatori dei soldi di tutto questo malaffare. Chissà, magari in un futuro non tanto prossimo cadrà ancora di più il segreto bancario, gli svizzeri saranno costretti a chiedere magari l'adesione all'Unione Europea. Fantascienza forse, chi lo sa. Sebastiano da Latina, buonasera. Sì, buonasera. Prego. Io volevo intervenire per questo fatto di questi due ragazzi che sono stati accoltellati qui a Roma. Sì. E quindi la prima cosa che voglio dire sicuramente è una parola di condanna per questo atto incivile, sicuramente, questo è fuori dubbio, quindi non si discute questo. Volevo discutere però se esistono anche... come posso dire, non voglio usare la parola diritti, no, sa, parlando di un fattore legato a quelle che possono essere le libertà di ognuno di noi, c'è una fetta di popolazione che magari assistere a certi spettacoli o perché non sa spiegare ai figli, o perché non vuole spiegare, o perché non lo vuole neanche toccare come argomento, che insomma è un numero molto grande di persone che in qualche modo anche quello va rispettato. Premetto che io ho amici gay e quindi non c'ho nulla contro il pluralismo, se così si può chiamare, sessuale, però ecco, cerchiamo di fare un po' un equilibrio, perché la mia paura è che o si scivola tutto da una parte o si scivola tutto dall'altro, cioè non si riesce a fare un qualcosa più equilibrato dove tutti possono essere soddisfatti, insomma, voglio dire, c'era quella signora prima di Venezia, mi pare, che dice sì, ma è più facile spiegare questo fatto che spiegare le donne per strada che fanno le prostitute, voglio dire, anche quella è una cosa negativa, no? Cioè, non è che vuol dire che se c'è di peggio allora possiamo giustificare una cosa un po' meno peggio, cioè, sono delle cose che per rispetto appunto degli altri in un luogo pubblico ci vorrebbe un attimino di attenzione, cioè, potrebbe essere presa questa situazione anche come una provocazione proprio per questa gente qui, come una sfida, come... E perché fare questo sapendo che il rischio è questo? Ora, io dico un po' di buonsenso, voglio dire, non niente di che, ognuno a casa sua fa quello che gli pare, come gli pare, eccetera, eccetera. Va bene, parliamo di un posto pubblico, dobbiamo fermarci anche... qua. Io la ringrazio, se vuole proseguire questa chiacchierata con noi domani sera dopo le 18.30 come ogni sera con la Zanzara. Per stasera ci fermiamo qua, grazie anche a Marco che è in attesa alla provincia di Trento, anche questa è una promessa, lo sentiamo domani, buona serata a tutti.